Parliamo ora di un nuovo spazio teatrale che si apre, ne parliamo con Elisa Maurizzi per il Teatro delle Condizioni Avverse. Ben ritrovata Elisa. Salve, grazie, ciao a tutti voi. Allora, dici un po' di questa bella notizia. Sì, diciamo adesso partiamo con una nuova avventura. Appoggio Misteto, un ridente paesino della Bassa Sabina, famoso, forse più famoso che per il Teatro delle Condizioni Avverse, per il Carnevalone Liberato che si festeggia la prima domenica di Quaresima, che realizzano i cari amici dell'Arci di Poggio Misteto. E noi partiremo da venerdì prossimo, perché appunto siamo scaramantici come Teatro delle Condizioni Avverse, e partiamo il venerdì alle ore 17 in via Diego Eusebi 17 con il nostro spazio, uno spazio libero, autogestito, che abbiamo, come dire, che sosteniamo con le nostre fatiche, con i nostri lavori in giro per l'Italia, con i nostri spettacoli. Uno spazio, ti dicevo, libero, aperto, dove ci saranno incontri, presentazioni, ma anche spettacoli, prove aperte. È, diciamo, uno spazio a disposizione della comunità e di chi vuole incontrarsi, socializzare, anche divertirsi nel nostro territorio. Senti, le dimensioni e poi l'ubicazione, se è proprio dentro il paese. Sì, nel centro storico. Okay. È un posto, insomma, neanche piccolino, insomma, 70 metri quadri, che okay, per noi sono tanti perché sono tutti nostri, e finalmente, diciamo, riusciamo un po' a realizzare un sogno, nell'attesa che un comune, come dire, dei dintorni decida di investire sulla cultura, su uno spazio teatrale, appunto, aperto, condiviso, plurale. Noi ce ne facciamo in qualche modo carico, e quindi lo apriremo, e tutti i venerdì sera sarà aperto a tutti quanti, insomma, che è anche aperto, nel senso di ci farebbe piacere anche poi condividere pratiche artistiche, certo, quindi aperto anche agli artisti, non solo agli spettatori. Insomma, noi da tempo abbiamo iniziato un'attività, diciamo, anche ufficiale con il MIBACT e con la Regione Lazio, di residenza teatrale, quindi diciamo un'attività in qualche modo riconosciuta, istituzionale, che però guarda sempre anche a un pubblico particolare. Lavoriamo con i migranti sia dello SPRAR che dei CAS, che sono molto presenti sul nostro territorio, con ragazzi delle scuole, ma anche ad esempio con i centri diurni, con persone con diverse disabilità. Quindi, diciamo, già facciamo questo tipo di lavoro, di andarci a cercare, come dire, un pubblico che magari normalmente non andrebbe a seguire linguaggi teatrali o linguaggi artistici. Quindi aggiungiamo uno spazio più informale, diciamo, a un tipo di lavoro già in qualche modo istituzionale che facciamo, che però, ti dico, tutto sommato ci piace anche di più, ci interessa di più, perché siamo in qualche modo liberi, no? Di scegliere la programmazione, liberi da vincoli anche amministrativi e burocratici, che insomma non sempre sono semplici da seguire. Sì. Senti, per chi non conoscesse la vostra realtà, spieghiamo anche in due parole il Teatro delle Condizioni Avverse. Certo, il Teatro delle Condizioni Avverse è una compagnia teatrale che nasce appunto in Sabina, in provincia di Rieti, a Poggio Misteto, appunto, ormai 17 anni fa, siamo quasi maggiorenni. Noi ci occupiamo di teatro e di percorsi artistici in generale, diciamo, temi dei nostri spettacoli sono quelli dedicati ai temi della legalità o a temi anche sociali e politici, o ad esempio i nostri spettacoli sono dedicati a Peppino Impastato, oppure alle infiltrazioni mafiose nel nord e centro Italia, oppure uno spettacolo che gira dal lontano 2003 che è Sangue dal naso, che invece è dedicato, diciamo così, alle violenze del G8, della polizia al G8 di Genova. Aggiungo, quindi, che sono tutti spettacoli in archivio a Radio Teatro, per cui per chi fosse interessato può farsi un'idea. Tra gli altri, sì, questi sono passati con molto piacere da voi. Sì. Senti, ci sono prossimi appuntamenti che vuoi segnalarci? Guarda, allora, diciamo, l'invito più immediato è proprio per l'inaugurazione di questo nuovo spazio, che è venerdì 6 ottobre, dalle 17 fino a notte fonda, con presentazione di varie attività. Diciamo, il concerto finale è il concerto di Grazie Mario, che è un gruppo locale che ci ha dedicato anche una canzone, la canzone Avversa, e sarà presente, insomma, insieme a un buffet biologico per tutti quanti quelli che vogliono passare a trovarci. Bene, bene. E in chiusura, allora, ci lasci tutti i riferimenti internet? Guarda, io vi lascio sicuramente il nostro sito condizioniavverse.org e la nostra pagina Facebook Teatro delle Condizioni Avverse. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, Elisa, e ci sentiamo presto. Crevi naturalmente il lupo, e a presto. Un saluto a tutti voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao.